per te, ma non sarà una canzone d'amore. Non devi chiederti come o perché, sono soltanto parole. Non c'entra niente la felicità, dubbi o tristezza o malinconia, sono pensieri, non è la realtà, vita, canzone, poesia. Sarebbe piuttosto banale usare le stesse parole, vecchie di secoli ormai. Non le userò questa volta, lo so, capirai. Mai, perché ti scende quell'ombra sul viso, a cosa pensi, i sogni che hai, quando nascondi il tuo dolce sorriso, quando ti incazzi ma senza un perché, quando ti aspetti qualcosa di meno banale da me. E sono qui a parlare di te, forse non ne capirai la ragione, non esiste un motivo, un perché, è solamente un'altra canzone, storia, racconto, romanzo, poesia, certo è soltanto che qualunque cosa essa sia. Thank you.